Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Allora, alcune rapide informazioni di servizio come sempre, alle quali sarete abituate. So che saranno noiose, però continuano a servire. Perché? Perché ringraziando il Dio le persone che ascoltano la radio, Radio 24, questa trasmissione, sono moltissime e hanno bisogno di queste informazioni. La principale qual è? Ma chiaramente la nostra mail. Un abuso al giorno @radio24.it, alla quale spedire le vostre segnalazioni. Abbiamo molti nuovi radioascoltatori e quindi se per molti saranno noiosi i suggerimenti che io richiamo, per altri invece saranno benvenuti, così come magari per molti sarà noioso il mio richiamo al sito radio24.it. visitatelo, è ben fatto, potrete anche dialogare con i giornalisti con me attraverso il mio blog Guardie o Ladri, ma potrete anche scaricare quando volete, come volete, via podcast tutte le puntate di qualunque trasmissione, quindi uno strumento utile. Allora, dicevo, la mail. Ebbene, dalla provincia di Verona, da Bussolengo per la precisione, una nostra radioascoltatrice, Daniela Olivato, ci ha scritto una lettera che secondo me è bellissima, perché si domanda, anche si chiede, se non fosse per caso lei una mosca bianca, ma subito siamo in grado di dirle no. Perché qual è il problema annoso che pone? Quello dell'insistenza, dell'arroganza attraverso la quale continue telefonate commerciali a qualunque ora del giorno e possiamo quasi dire della notte rompono le scatole, scusate la quasi volgarità, a chi magari non ha bisogno di alzare la cornetta del telefono per sentirsi propinate da società, compagnie e chi più ne ha più ne metta le cose più disparate. Per parlarne, chi abbiamo chiamato? Ma innanzitutto proprio la nostra radioascoltatrice Daniela Olivato, buongiorno. Buongiorno a lei, a tutti i radioascoltatori e all'avvocato Fortunato. Oh, e lei ha presentato, anticipato la presentazione dell'avvocato Giuseppe Fortunato, che è componente del Garante per la Privacy, che è stato già nel passato nostro ospite. Buongiorno avvocato. Buongiorno. Allora, dottoressa Olivato, ci racconti una giornata tipo di una persona che lavora, sta in casa, famiglia, figli, e di tanto in tanto drin e bisogna alzare la cornetta per dire o sentirsi dire cosa? Ma ormai è da diversi, oserei dire, anni che sono vittima di questo abuso. Non è una parola eccessiva, perché ricevo una media, quando sono poche, un paio o arrivo addirittura 5-6 telefonate di carattere commerciale al giorno, e queste partono dalla mattina anche alle 9 fino addirittura ad arrivare alle 9:30, anche 10 di sera, quando addirittura le ricevo in giorni festivi. E sono telefonate ovviamente di più disparati tipi: chi ti vuole vendere il servizio telefonico, il servizio televisivo, la società di beneficenza e non so, il prodotto che può essere il pannello solare piuttosto che il corso d'inglese, di tutto e di più. Ecco, una domanda: ma lei il suo numero di telefono lo ha fatto pubblicare sul, come dire, gli annuari predisposti a tal uopo, oppure lei ha negato la sua autorizzazione? Io il numero di telefono ce l'ho, giustamente, come è di diritto, pubblicato sull'elenco del telefono. Certo, certo. Recentemente certo. Ho comunicato alla mia società telefonica il desiderio di poter, tra virgolette, bloccare il mio numero di telefono a questo tipo di telefonate. Certo, certo, certo. E loro mi hanno confermato questa possibilità di essere, diciamo, catalogata negli utenti non, diciamo, disponibili a ricevere questo tipo di telefonate. Bene, bene, questo è molto importante. Allora, io glielo domandavo perché ovviamente c'è anche una possibilità contraria, vale a dire quello di non apparire negli elenchi telefonici. Certo è che però c'è un diritto che, come dire, è superiore a tutti: il diritto alla privacy, il diritto a non essere importunato con qualunque offerta di qualunque tipo. Il caso della signora Olivato in realtà interessa milioni di italiani. Chi tra quelli che hanno un numero che appare nell'elenco non è stato tempestato fino a 5, 6, 10 volte al giorno? Avvocato Fortunato, le domando innanzitutto una cosa: ma è legittimo un comportamento del genere oppure no? E se non è legittimo, chiamare a chi non vuole essere chiamato. In ogni momento la persona può dire: non mi chiamate, e in quel momento ha il diritto di cancellare il suo dato anche se è stato acquisito precedentemente con il consenso. Ecco, ma come si fa però? Perché a un certo punto smette di chiamare la società Rossi ma incomincia a chiamare la società Bianchi, perché se il mio numero è lì probabilmente saranno comunque altri a chiamare. Com'è possibile interrompere questa mostruosa catena? C'è una formula molto semplice: rivolgersi al garante della privacy con un'email, con una telefonata, con un fax, venendo di persona, ed evidenziare bene che cosa è successo, e bisogna ben specificare che non si vuole essere chiamati da queste persone, che poi chiamo i piccoli assassini, perché un assassino è quello che ci leva tutta la nostra vita, quindi tutto il tempo della nostra vita. Uno che ci leva una parte del nostro tempo in effetti è un piccolo assassino, perché ci ammazza per una parte del nostro tempo. Erode un po' alla volta. Allora, quello che lei ci ha detto, fortunato, è molto importante. Cioè lei dice, vediamo, mi corregga se sbaglio, prendete nota di chi vi chiama accuratamente, dopodiché, suppongo che sarà per molti noioso, però oggi esistono anche le mail, dopodiché segnalate questo tipo di invasione al garante per la privacy. Allora le chiedo, Fortunato, come la raggiungiamo? Cioè i nostri ascoltatori come si mettono in contatto con la sua istituzione, con quella che lei rappresenta? Basta andare sul sito del garante, diciamolo, garanteprivacy.it. Ridiciamolo, scusi, perché io le ho parlato sopra. garanteprivacy.it. Benissimo. C'è l'email, qui si può tranquillamente rivolgersi all'URP, ma si può anche semplicemente scrivere garante della privacy Montecitorio, Roma. Quindi si può anche scrivere, si può mandare una lettera. Benissimo. È semplice. Quindi spiegando compiutamente che cosa è successo e spiegare anche che non si vuole essere chiamati. Ecco, ma questo qui però interrompe alcune catene, alcuni anelli, anzi rompe di questo processo. Però quello che mi lascia perplesso è che mi pare che ci sia una grossa via d'uscita, se non quella di cancellarsi dagli elenchi telefonici, proprio per non avere in assoluto, come dire, disturbi. O sbaglio, Fortunato? Dal 24 maggio dovrebbe nascere il famoso registro dei no, cioè in cui tutti quanti possono benissimo essere iscritti, e a questo punto saranno anche sanzioni gravissime che verranno date. Oh, quindi questa è una bella notizia. Quindi dal 24 maggio. Sì, dal 24 maggio speriamo che i tempi vengano rispettati. Ecco, la nostra radioascoltatrice mette in evidenza una cosa che è successa a tutti, è successa anche a me. Tra l'altro è successo pure nella redazione del giornale, quindi chiamano, come dire, indiscriminatamente, non perché un giornalista non possa essere raggiunto, anzi, ci mancherebbe altro, siamo dei modesti ignoranti, ma proprio per dire che quello che evidenzia l'Olivato succede a tutti, cioè la nostra radioascoltatrice dice è impossibile spesso identificare, quindi si è costretti a chiamare perché risulta o chiamata anonima oppure sconosciuto. Ecco, ma non è un gesto, le chiedo, Fortunato, un po' vigliacco questo? Perché siccome c'è chiamata anonima, allora uno dice ma chissà chi sarà, prendo e alzo il telefono. Chi fa telefonate illecite, non dà neanche la possibilità di esprimere il proprio dissenso, ovviamente compie un atto di gravissima scorrettezza. Teniamo presente che anche verbalmente si può esprimere il proprio diniego, quindi nel momento in cui arriva alla telefonata si può benissimo dire non mi chiamate più, e se la persona insiste tenga presente che dopo un provvedimento del garante si rischia anche una reclusione fino a 2 anni, quindi diciamo questa è una grande forza che dà a coloro che subiscono, certo, queste telefonate, certo, sgarite mentre stanno tranquillamente al tavolo a studiare o alla tavola a mangiare. Assolutamente, assolutamente. Io... gravi. Quindi perciò io dico sempre informate il garante della privacy, perché nel momento in cui nei confronti di alcune società abbiamo fatto degli appositi atti, quindi abbiamo intimato alcune cose, non sono state fatte, sono partite anche delle sanzioni penali, a parte il fatto che oggi le sanzioni anche amministrative sono di una certa entità. Assolutamente. Allora io ripeto il sito garanteprivacy.it, all'interno del quale potete trovare tutte le informazioni per segnalare questi tipi di abusi, e ricordiamo che dal 24 maggio dovrebbe essere partito, usiamo il condizionale, questo famoso elenco dei no, cioè di tutti coloro i quali vogliono opporsi a queste chiamate. Olivato, a lei l'ultima parola. Intanto ringrazio l'avvocato Fortunato per il suo intervento. Suppongo che lei si iscriverà, no? Sì, beh, senza dubbio. Comunque, ecco, volevo precisare che ho un grosso rispetto per chi svolge questo lavoro, perché chi telefona a volte scarico la mia arroganza su queste persone che però lavorano, quindi assolutamente sì, certo, mi dispiace a volte, mi dispiace anche sbattere giù il telefono o essere anche scortese, però ecco, il mio dissenso è proprio verso queste società, verso che usano il sistema veramente della buona fede di una persona che è costretta a correre, certo, al telefono a rispondere e si nervosisce perché poi magari continuano a insistere, cioè non c'è, sì, una via di scampo, assolutamente, insomma. La scortesia non è nei confronti del singolo ma nei confronti di questo sistema è veramente noioso. Grazie alla nostra radioascoltatrice, in regia Filippo Aureggi, in studio ad Elisabetta Fusconi e Roberto Galullo, vi auguro una buona giornata.